In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso. E avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Quante volte anche noi abbiamo paura di interrogare Gesù su questo argomento? Pensate, Gesù ha detto ai discepoli: Mettetevi bene in mente queste parole, il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Gesù quasi mai ha detto questa espressione, mettetevi bene in mente queste parole, il che significa che queste parole sono molto importanti, sono essenziali, sono quello che lui ci vuole comunicare, che ci vuole dire, eppure sono parole misteriose, parole che fanno anche timore e nessuno osava interrogarlo e anche noi abbiamo paura di interrogare Gesù su queste parole. Cioè il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Noi sappiamo molto bene che cosa vuol dire cadere nelle mani degli uomini. Sappiamo che c'è nel cuore dell'uomo, nelle mani dell'uomo, tanta violenza, tanta vendetta, tanto male, tanta malizia. E chi vuole cadere nelle mani degli uomini? Nessuno vuole cadere nelle mani degli uomini. Eppure questo è quello che ha fatto il figlio dell'uomo. Ecco perché Gesù non voleva che si dicesse a nessuno che egli era il Messia, perché è un Messia completamente diverso da quello che ci si aspetta. E noi siamo chiamati a ripercorrere le orme del Maestro. Anche noi siamo consegnati nelle mani degli uomini. Ma quante volte recalcitriamo? Quante volte ci ribelliamo, quante volte non capiamo che cadere nelle mani degli uomini non è la fine, non è un destino che non ha una soluzione positiva, ma cadere nelle mani degli uomini è soltanto un aspetto, è soltanto un momento, è soltanto una situazione momentanea. Perché la vittoria è sempre di Cristo, la vittoria è sempre del bene. Allora, quante volte vediamo nella nostra vita che non vogliamo cadere nelle mani degli uomini? Che vuol dire nella pratica per noi cadere nelle mani degli uomini? Ad esempio, tutte le volte che io vengo trattata male e continuo a salutare nonostante ce l'abbiano con me, continuo a rivolgere il saluto, continuo ad amare una persona anche se mi ha fatto del male, continuo a fare del bene anche a chi mi vorrebbe cancellare dalla faccia della terra, continuo a voler il bene di chi mi perseguita, al lavoro ad esempio, quante persone alle volte fanno il mobbing, cioè perseguitano i loro colleghi o in un modo o in un altro, quante volte noi avremmo il desiderio di farla pagare, di pagare con la stessa moneta, e invece questo vuol dire per noi essere consegnate nelle mani degli uomini. Quante volte tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra colleghi, tra amici, e magari ci sono incomprensioni, magari ci sono invidie, gelosie, e noi siamo chiamati sempre a rispondere con l'amore. Questo non vuol dire che siamo chiamati a subire ingiustizie senza cercare di promuovere il bene. Dobbiamo sempre cercare di promuovere il bene, ma mai fare il male per questo, ma anzi, al male per sconfiggerlo ci vuole di rispondere con il bene. C'è un solo modo per sconfiggere la catena del male, rispondere con il bene. Allora chiediamo oggi al Signore la grazia di perseverare in questa strada insegnataci dal Maestro, anche se Ovviamente facciamo fatica a comprenderla e abbiamo paura di interrogare Gesù su questo, ma noi siamo più fortunati degli apostoli. Perché? Perché veniamo dopo una lunga storia in cui c'è la conferma continua che la croce di Cristo è vittoriosa e che il martirio è soltanto un passaggio e che alla fine il bene vince sempre. Buona giornata.